Noi chiediamo quali sono i motivi che stanno determinando questo atteggiamento da parte del governo, che è un atteggiamento assurdo, di chi vuole mostrare i muscoli nei confronti dei deboli, che non risponde a nessun elemento oggettivo relativo alle convenzioni internazionali e che mostra dell'Italia il volto peggiore, unicamente per mandare un messaggio rassicurante nei confronti dell'elettorato di riferimento del centrodestra, e si risponde in modo burocratico nei confronti dell'esigenza di trovare una soluzione. L'Italia a più riprese è stata meta di navi e imbarcazioni con la quale sono approdati immigrati da queste parti, lo è stata la Calabria, lo è stata la Puglia, lo è stata e lo è la Sicilia, Lampedusa, e quindi non è accanendosi nei confronti di questi 37 immigrati, che in realtà sono profughi per l'appunto, che si può affrontare e risolvere questa questione. La verità è che si vuole fare, mostrando un volto odioso, un respingimento collettivo che è vietato da tutte le convenzioni internazionali, e sarebbe invece dovere del governo italiano far approdare la nave, offrire assistenza ai profughi che sono stati raccolti, identificarli, valutare se questi presentano richiesta d'asilo ed eventualmente decidere.